voce. Elisabetta Piccolomini legge L'Edera di Grazia Deledda. 20ª puntata. L'alba cominciava a rischiarare il cielo sopra il Monte San Giovanni. La grande vallata dormiva ancora e nel silenzio dell'alba, triste, pareva coi suoi monumenti fantastici di pietra e le sue macchie melanconiche un cimitero ciclopico sotto le cui rocce dormissero i giganti delle leggende paesane. Il cielo era grigio, cineereo e violaceo in fondo all'orizzonte, sparso di nuvolette giallastre sopra i monti di Nuoro e di Orune, velati di vapore color fiore di malva. Annessa scendeva verso il ponte con un fagotto in mano e pareva timorosa di rompere il silenzio del luogo e dell'ora. Il suo viso grigio e immobile, gli occhi chiari dalla pupilla dilatata, riflettevano la serenità funerea del grande paesaggio morto, del grande cielo solitario. Arrivata vicino al ponte, sotto il quale non scorreva più un filo d'acqua, si mise dietro una roccia. E poiché c'era da aspettare un bel po' prima che la vettura di zio Sogos riempisse col suo fragore il silenzio dello stradale, sedette su una pietra e depose il fagotto per terra. Poco distante sorgeva un elce con la cima inaridita e alcune fronde d'edera strappate dal tronco dell'albero stavano sparse al suolo, non ancora secche, ma già calpestate da qualche passante. Ella le vide e ricordò che molte volte Paolo l'aveva rassomigliata all'edera. Addio. Ora tutto è finito davvero. Ella ha ripreso il suo fatale cammino che deve condurla lontano per sempre da quei luoghi dove un giorno è giunta così, come adesso parte, con un fagotto in mano e guidata da un vecchio misterioso che era forse il suo triste destino. Il cielo si copriva di vapori rossastri che annunziavano una giornata torbida e calda. Una lodola cantò, dapprima timidamente, poi sempre più vivace e lieta. Un roteare di carrozza risuonò nello stradale. Annessa balzò in piedi ascoltando. La carrozza si avvicinava. Era la vettura di zio Sogos? Era presto ancora, ma il vecchio carrozziere aveva probabilmente anticipato l'ora della partenza. La vettura, infatti, arrivata vicino al ponte, rallentò la corsa e si fermò. Ella prese il fagotto e si avanzò verso lo stradale, ma appena fatto qualche passo si fermò e un rossore lividognolo le accese il volto. Paolo De Cherchi era lì, a pochi passi, fermo, davanti a un carrozzino a due posti. Annessa! Annessa non si mosse. Lo guardava spaventata, vinta da un sentimento di paura e di gioia. Egli le fu vicino e le disse qualche parola. Ella non sentì. Per un attimo dimenticò ogni altra cosa che non fosse lui. Se durante quel momento di incoscienza egli le avesse preso la mano dicendo «Torniamo a casa», ella lo avrebbe seguito docilmente. Ma Paolo non le prese la mano, non le propose di tornare a casa ed ella si riebbe. Vide che egli era invecchiato, imbruttito, e che la guardava in modo strano, con occhi cattivi. Che vuoi? Domandò come svegliandosi da un sogno. Te lo dirò in viaggio. Cammina, su, montiamo sul carrozzino. Avremo tempo di parlare in viaggio. Che vuoi? Che vuoi? Dove vuoi andare? Ella ripeté, ridiventata pallida e triste. Andremo dove vorrai, ma cammina, andiamo, bisogna partire. Io non partirò con te. Gli occhi di lui s'accesero d'ira. Tu partirai con me e subito. Andiamo, vieni. Allungò la mano, ma la ritirò subito, quasi che una forza e un disgusto superiori alla sua volontà gli impedissero di toccare Annessa, ed ella se ne accorse, come sulla montagna s'era accorta della paura istintiva di Prete Virdis. Tuttavia indietrecciò, scostandosi sempre più da lui. «Io voglio partire, ma non con te», disse con tristezza, ma senza rancore, fissando sempre negli occhi dispettosi di lui i suoi occhi spalancati. «Perché sei venuto? Sapevi che io non ti avrei obbedito. Non te l'ha detto Prete Virdis? Io non verrò con te, non verrò più. Tu verrai, invece. Tu verrai, ti legherò. Puoi legarmi, trascinarmi, io scapperò appena potrò, te ne avverto». Egli incrociò le braccia nervosamente, come per comprimere un possibile scoppio di violenza. Tremava tutto e si avvicinava a lei e se ne allontanava, spinto e risospinto da sentimenti opposti, da ira e da passione, da pietà e da orrore. Ella non lo aveva mai veduto così, neppure nei momenti più disperati, quando egli diceva di volersi uccidere. Lo guardava, anche lei vinta suo malgrado, da un sentimento di pietà e di umiliazione. «Tu verrai con me», egli disse, seguendola fin sotto l'elce, dietro il cui tronco s'era rifugiata. «Tu verrai con me, senza dubbio, se non oggi domani. Verrai con me. Parti sola adesso, se vuoi, ma bada bene a quanto ora ti dico. Ti proibisco di fare la serva. Non sono un vile, io, capisci? Non sono un vile. Sono Paolo De Cherchi e so il mio dovere. Io non ti abbandono. Hai capito?» «Ho capito. Tu non sei un vile e non mi abbandoni. Sono io che devo fare il mio dovere e lo farò». «Lascia le parole inutili, Anna, lasciamo le parole inutili, anzi, né io ti abbandono né tu devi tormentarmi oltre. Sono stanco, hai capito? Sono stanco. Sono stanco delle pazzie di Prete Virdis e delle idee che egli ti ha messo in mente. Sono stanco di tutto. È tempo di finirla. Sì, è tempo di finirla, Paolo. Non gridare, non alzare la voce. Prete Virdis non ha a che vederci nei nostri affari. Anche gli altri tuoi si inquietano inutilmente. Lasciatemi in pace e ritornate in pace. Non andare contro la volontà di nessuno e neppure contro la tua stessa volontà». «E allora è proprio contro la tua volontà che devo combattere?» «Sicuro. E perché?» «Il perché tu lo sai, non farmelo dire». Ed un tratto gli occhi smorti di lei s'animarono di un dolore quasi fisico. «Tu lo sai», ripeté sottovoce. «Te lo leggo negli occhi. Va, non tormentarmi oltre. Tu ci hai pensato un po' tardi al tuo dovere, ma del resto è meglio così. Quello che è accaduto sarebbe accaduto lo stesso e tu mi avresti maledetto. Anche adesso, vedi, sei cambiato con me, Paolo. Io non sono più Annessa, sono una donna malvagia, ma vedi, cuore mio, io sono contenta che tu non mi maledica. Avevo paura di questo. Sono contenta che sei venuto e non ti domando altro. Tu non hai, come credi, obblighi verso di me. Io ho fatto quello che ho fatto perché era il mio destino. Non l'ho fatto solo per te, l'ho fatto per tutti voi. Ho fatto male, certo, ma ero come una pazza, ero fuori di me, non capivo niente. Dopo ho capito e ho fatto un voto, ho detto: se loro si salveranno, Se io mi salverò, voglio castigarmi da me, voglio andarmene, voglio vivere lontano da lui per non peccare più. Ecco tutto. E ho fatto bene perché tanto, tanto tu, Paolo, tu sei cambiato. Tu ora hai paura di me ed hai ragione. Tu vaneggi, tu sei fuori di te, egli disse stringendosi la testa tra le mani. Non è vero niente, non è vero, non è vero, gridò poi come fuori di sé rabbiosamente. Invece è tutto vero, quello che è stato, ella scosse la testa, scosse le mani quasi per scacciar via lontano da sé il passato. Egli parve calmarsi, convinto delle parole di lei. Chinò la testa e fissò le fronde appassite dell'edera. Nel silenzio, dall'alto dell'elce, il trillo della lodola si spandeva sempre più lieto. «Che farai?» egli domandò. «Dove andrai? Tu sei malata, sei invecchiata. Che farai? La serva? Sai cosa vuol dire fare la serva? Sai com'è la famiglia presso la quale devi andare? Io li conosco, i tuoi padroni. Gente avara, gente pretenziosa. Essi non ti ameranno certo. Ti ammalerai, cadrai, ti seccherai inutilmente. Come queste foglie qui». L'edera stava per soffocare l'albero. «Meglio che sia stata strappata», ella rispose, intenerita dalla pietà che egli finalmente le dimostrava. E cadde a sedere sulla pietra e nascose il viso tra le mani. Paolo continuò a parlare. Ella stava immobile, seduta sulla pietra, coi gomiti sulle ginocchia e il viso tra le mani, come quando, seduta sul gradino della porta che dava sull'orto, svolgeva nella mente il filo dei suoi tenebrosi pensieri. Capiva che Paolo in fondo era contento di liberarsi di lei, e Paolo, a sua volta, sentiva che le sue parole erano vane e non arrivavano fino all'anima di lei. In lontananza risuonò il roteare pesante della corriera. «Vattene», ella supplicò. «Per amor di Dio, vattene, lasciamoci in pace. Stringimi la mano, saluta i tuoi, don Simone, zio Cosimo, donna Rachele. Di loro che non sono un'ingrata, disgraziata, sì, ma ingrata no. Va, addio». Egli non si mosse. La corriera s'avanzava. Doveva aver già oltrepassato la svolta prima del ponte. Annessa si alzò, riprese il suo fagotto. «Paolo, addio, stringimi la mano». Ma egli pallidissimo, evidentemente combattuto tra il desiderio di lasciarla partire e l'umiliazione che la generosità di lei gli imponeva, volse il viso dall'altra parte e ricominciò ad agitarsi. «No, no, no, io non ti voglio dire addio né stringerti la mano. Ci rivedremo. Ti pentirai amaramente di quello che oggi tu fai. Vattene pure, non te lo impedisco, ma non ti perdono. Annessa, non ti posso perdonare perché tu oggi mi offendi come nessuno mai mi ha offeso. Va pure, va». «Paolo, cuore mio», ella gridò con disperazione, «perdonami, guardami, non farmi partire disperata, perdonami, perdonami. Vieni con me, andiamo, vado ad avvertire zio Sogos che passi dritto». Allora ella gli si avvinghiò al collo per impedirgli di muoversi. E tra le braccia di lui, che l'accoglieva sul suo petto con un impeto di vera pietà, tremò tutta come un uccellino ferito. «Andiamo, andiamo», egli ripeteva, «andiamo dove tu vuoi, dovunque si può fare penitenza. Abbiamo peccato assieme, faremo penitenza assieme». La corriera arrivò, si fermò sul ponte. Annessa sentiva che Paolo le parlava con dolcezza e con pietà, perché era certo che ella sarebbe partita. Non le venne neppure in mente di metterlo alla prova. Si staccò da lui. Le parve di aver peccato col solo toccarlo. Senza dirgli più una parola, riprese il suo fagotto e si diresse verso lo stradale. Egli non la seguì. E anni passarono. I vecchi morirono, I giovani invecchiarono. Conosciuta la storia di Annessa, la famiglia presso la quale ella doveva andare a servire non volle più saperne di lei. Ella dovette aspettare un bel po' prima di trovare servizio e finalmente fu accolta in una famiglia di piccoli possidenti borghesi. Il padrone tentò di sedurla. La padrona, ogni volta che tornava dalla predica o dal passeggio e aveva veduto qualche signora più ben vestita di lei, se la prendeva con la serva. Un giorno la bastonò. Non era la vita di penitenza sognata dalla donna colpevole, ma neppure una vita molto allegra. Ad ogni modo, il tempo passò. Gantine venne a cercare la sua ex fidanzata. Paolo le scrisse. Poi Gantine prese moglie e Paolo parve rassegnarsi. Annessa cambiò di padrone. Capitò finalmente presso un vecchio sacerdote che tutti chiamavano canonico Farfalla perché camminava così lesto che pareva volasse. Canonico Farfalla godeva fama di astrologo perché ogni notte, dalle piccole finestre della sua casetta, posto al confine del paese, guardava a lungo le stelle. Quando accadeva qualche fenomeno celeste, tutti ricorrevano a lui per spiegazioni. Era un uomo colto, ma anche molto distratto. In breve Annessa diventò padrona della casetta e poté fare tutto quello che volle. Allora si acquistò fama di donna pietosa. Fu veduta dietro tutti i funerali. Fu chiamata ad assistere i moribondi, a lavare e vestire i cadaveri. Tutti i malati poveri, le partorienti povere, i paralitici poveri, ebbero da lei qualche assistenza. E così gli anni passarono. Una volta donna Rachele venne a Nuoro per la festa del Redentore. Andò a trovare Annessa, l'abbracciò e piansero assieme. Poi la vecchia dama, pallida e triste, nel suo scialle nero, come la Madonna in cerca del figliuolo morto, prese la mano della serva e cominciò a lamentarsi. «I vecchi, tu lo sai, i vecchi sono morti. Rosa è sempre malata. Paolo è invecchiato, soffre di insonnia e di altri malanni. Anch'io, di giorno in giorno, mi curvo sempre più cercando il posto dove la mia fossa. Abbiamo bisogno di una donna fedele in casa, di una donna affezionata, disinteressata. Abbiamo avuto una serva che ci rubava tutto. Paolo non è buona a niente. Rosa è invalida. Che accadrà di loro se io morrò?» Annessa credette che donna Rachele volesse proporle di tornare da lei e, sebbene decisa di rifiutare, si sentì battere il cuore. Ma la vecchia non proseguì. Qualche tempo dopo Annessa seppe che Paolo era malato di tifo. Poi, un giorno, verso la fine di autunno, se lo vide comparire davanti come un fantasma. Era diventato davvero il fantasma di se stesso. Vecchio, magro, coi capelli bianchi, gli occhi infossati, i denti sporgenti. Durante tutti quegli anni aveva sempre continuato a vivere di ozio, di imbrogli, di vizi. Il tifo poi gli aveva un po' ottenebrato la mente, lasciandogli una strana mania. Egli credeva di essere stato complice di Annessa nell'uccisione del vecchio e ne provava rimorso. Ella si spaventò nel vederlo. Egli le raccontò i suoi mali. «Tutte le notti sogno il vecchio. Qualche volta egli mi sembra il nonno Simone, il quale mi impone di venirti a trovare e di costringerti a sposarmi. Che facciamo, Annessa? Non hai rimorsi tu, non sogni il vecchio?» Ella non era mai stata troppo tormentata dai rimorsi. S'era pentita. Credeva d'essersi castigata abbastanza con l'abbandonare l'amante e la famiglia dei suoi benefattori. Ma dopo i primi tempi non aveva più sognato o veduto il vecchio. «Che facciamo?» ripeté Paolo. «In casa mia c'è bisogno di una donna fedele e paziente. Mia madre è vecchia, Anche lei malandata. Rosa è tanto infelice. Io sono un cadavere ambulante, Anna. Ritorna se vuoi fare penitenza. Donna Rachele ha paura di me, rispose Annessa. Se ella vuole posso ritornare, ma finché è viva lei non parlarmi di matrimonio. Allora è inutile che tu ritorni, egli rispose tormentato dalla sua idea fissa, e se ne andò senza neppure stringerle la mano. L'uno per l'altro ormai erano gelidi fantasmi. Un altro anno passò. Egli non la molestò oltre, ma coi suoi rimorsi, le sue paure, la sua idea fissa, dovette impressionare donna Rachele, perché un giorno Annessa ricevette una lettera con la quale la vecchia dama la pregava di ritornare. Ella abbandonò con dolore la tranquilla casetta dalle cui finestre il canonico Farfalla parlava alle stelle e ritornò. La vecchia casa De Cherchi pareva una rovina. La porta tarlata, i balconcini arrugginiti, sfondati, il cornicione coperto di erbe selvatiche, tutto all'esterno, come nell'interno della casa, tutto era decrepito, pronto a cadere e a seppellire le tre meschine creature che l'abitavano. Annessa rientrò piangendo in quel luogo di pena. Vide donna Rachele coricata sul lettuccio nella camera da pranzo e trasalì. Accanto al lettuccio stava seduta una vecchietta giallognola, un po' gobba, con due grandi occhi metallici che avevano uno sguardo strano, diffidente, felino. «Rosa! Rosa mia!» Ma Rosa non la riconobbe. E quando seppe che quella piccola donna, che sembrava più giovane di lei, era Annessa, l'antica figlia di Anima, la sua futura matrigna, la guardò con maggiore diffidenza. «Rosa», pregò donna Rachele, «va in cucina e fa scaldare un po' di caffè». «Posso andare io? Conosco la cucina, mi pare», esclamò Annessa. Ma Rosa trasse di saccoccia, con ostentazione, un mazzo di chiavi, aprì il cassetto della tavola, prese lo zucchero e disse: «Tu non sai dove sono le provviste. Ora vado io in cucina, sta lì con la nonna». E rimise le chiavi in saccoccia. Rimaste sole, donna Rachele disse alla sua antica figlia d'anima: «Non contrariare la povera Rosa. Ella ci tiene ad essere la padrona del poco che ancora abbiamo. Non contrariarla, Annessa, figlia mia. Quando ha qualche dispiacere la povera Rosa cade in convulsioni, non contrariarla». In quel momento rientrò Paolo. Egli era stato a messa. Qualcuno l'aveva avvertito dell'arrivo di Annessa. «Che nuove a Nuoro?» le domandò semplicemente, stringendole la mano. «Fa molto caldo?» «Non molto», ella rispose. Lo guardò. In un anno egli aveva finito di invecchiare. Aveva i capelli bianchi, i baffi grigi. Pareva zio Cosimo Damiano. «Paolo», disse sottovoce donna Rachele, «avvertivo Annessa di non contrariare la povera Rosa. Pregala anche tu, dille che...» «Ma sì, sì», egli disse con impazienza. «Annessa lo sa già che è tornata qui per fare penitenza. Te l'ho già detto, Anna, mi pare. Te l'ho detto, sì o no?» «Sì, sì», ella rispose. Come in una sera lontana, ella apre la porta che dà sull'orto e siede sullo scalino di pietra. La notte è calda, tranquilla, rischiarata appena dal velo biancastro della Via Lattea. L'orto odora di basilico, il bosco è immobile, la montagna col suo profilo di dorso umano par che dorma distesa sul deserto infinito del cielo stellato. Tutti dormono, anche Paolo, che soffre di lunghe insonnie nervose. Da qualche giorno, però, egli è tranquillo. La sua coscienza sta per acquietarsi. Domani Annessa avrà un nome. Si chiamerà Anna De Cherchi. Tutto è pronto per le nozze modeste e melanconiche. Annessa ha preparato tutto e adesso siede, stanca, sul gradino della porta. E pensa, o meglio, non pensa, ma sente che la sua vera penitenza, la sua vera opera di pietà è finalmente cominciata. Domani ella si chiamerà Annessa De Cherchi. L'edera si riallaccerà all'albero e lo coprirà pietosamente con le sue foglie. Pietosamente, poiché il vecchio tronco ormai è morto.